conosciuto qui dagli occhi che già non vedevano così lontano. Quando un palloncino ti scappò di mano e volò e volasti pure tu. Sì, sei tu, gli stessi identici occhi miei, ma in grande o forse solo con un po' di più di incanto. Son cresciuti intanto e pieni di domande, son rimasti miopi fino a qui. Siamo sì vivi anche se un po' cambiati. Siamo morti e poi più volte noi rinati, come fingevamo se stavamo giù sotto una coperta. Come fiamma saltavamo su nella scoperta di un sorriso sul viso di mamma. Li ho lasciato te così. Nostalgia di me quando ero te. Agla, tu sì che eri un re, io no, mai più come te. Noi che trovavamo tutto in niente, adesso c'è in tutto e nessun re. Vedi questo telo alzato tra noi due, è la vita che tu hai visto sempre come un bel ricamo. Io di qua da uomo so la trama ordita, odio e amo tra i suoi no e i suoi sì. E siamo qui, forse appena un po' più stanchi, fieri perché no di quei capelli bianchi, e a implorare tempo come un tempo in cui c'era la paura di una mano di papà prima della puntura e di una porta aperta piano piano. Come è andata poi, sai se abbiamo visto